πολίτες της Αθήνας. Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Sono passate le 23 quando Alexis Tsipras arriva nella piazza dell'Università di Atene. In cima alla scalinata c'è un piccolo podio. La scritta Syriza è comparsa solo un'ora prima. La gente invece balla e canta già dal pomeriggio sulle note di Bella Ciao, ma anche su note più recenti e meno ideologiche. Quanti saranno? Portami via! Perché mi sento di cuore? E se vuoi? Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Parla il leader di Syriza, la piazza risponde con entusiasmo, con il sorriso, con le bandiere, anche irriverenti, che invitano la troica ad andare all'inferno e la cancelliera a fare sogni d'oro. Ma la folla non è oceanica. Pochi metri più in là, verso piazza Sindagma, strade libere e taxi in attesa. Niente caroselli. Quando nel 1981 Andreas Papandreou, padre del PASOK, vinse le elezioni con il 48% dei voti, la Grecia intera si sollevò. Quello fu un momento storico, mi racconta Panagiotis, professore di lingue che incontro ad Atene il giorno dopo le elezioni. Lui aveva 8 anni e ricorda l'intera città in strada. I was in the party, let's say, but it wasn't a real party yesterday night. I was there very early, at 8 o'clock, something like this. C'era tanta gente ieri, ma non è stata una vera festa. Qualche migliaio di persone. Ma dove sono tutti quelli che hanno votato per Syriza? Arriveranno, mi sono chiesto. Non sono scesi in piazza. È una strana vittoria, mi dice Panagiotis. È vero, Syriza ha vinto, ma anche Nuova Democrazia ha ottenuto un grande risultato. Resta il secondo partito del paese. E poi c'è Alba Dorata. Nessuno ne parla, ma sono la terza forza del paese. Entrano in Parlamento con 17 seggi. Nonostante i loro leader siano quasi tutti in prigione e non avessero un soldo per fare campagna elettorale. Even if their leader is in jail, even if they hadn't any money, Syriza, che viene definita sinistra radicale, ha scelto di allearsi con i greci indipendenti di ANEL, una piccola formazione di destra. Pazzi li definisce Panagiotis. Nationalist, a little bit crazy, right left, populist, and they will collaborate with Syriza in order to form a government, which is something extremely strange, extremely strange. Una cosa molto strana, aggiunge. Gli chiedo se alla luce di questa scelta Syriza può essere considerato davvero un partito di sinistra. Do you think that Syriza is a really left party? The basis of Syriza is it's a really left party. Mi risponde che la base è certamente sì, ma si tratta di un 3-4%. Il resto è un mosaico di varie posizioni. Ha raccolto i delusi del PASOK. Certo, ora è forte del 36% raccolto alle elezioni, ma la situazione è difficile e se la guida non sarà forte abbastanza, collasserà. E loro lo sanno. It's a mosaic of different ideologies, different interests, etc. So Syriza now is something who looks like very strong, but you know that everything is going to be extremely difficult for Syriza, and if it doesn't go in the good direction for the society, it will collapse, and they know it. Panagiotis si riferisce ai dirigenti di Syriza, quelli che qualche giorno prima del voto non volevano nemmeno sentir parlare dei greci indipendenti e che dopo l'accordo annunciato da Tsipras non hanno emesso un fiato. ANEL vede la luce nel 2012, ha una posizione euroscettica, contrario all'austerity, determinato a combattere l'immigrazione clandestina e con posizioni poco amorevoli anche nei confronti degli ebrei e degli omosessuali. si è staccato da Nuova Democrazia proprio a causa del memorandum d'intesa con la Troika. E qui potrebbe trovare posto il primo messaggio che Tsipras ha voluto dare alleandosi con Kamenos, leader di ANEL. Il messaggio è per Bruxelles. Siamo pronti a trattare, negoziare e impegnarci. Vogliamo restare nell'euro e in Europa, ma non abbiamo paura. Ci avete tolto tutto e camminando per Atene si tocca con gli occhi il disastro economico e umano in cui è precipitato il paese. Ora recuperiamo la dignità. Posizione questa da non sottovalutare perché i greci sono un popolo fiero. Ma c'è un altro messaggio che forse è nascosto in questa alleanza. Ad ANEL fanno capo, politicamente parlando, ampi settori della polizia. Domenica Atene ha schierato nelle strade un ingente numero di agenti. Intorno alle 20, quando ormai la vittoria era certa, ed era certo anche il vantaggio, consistente, le forze dell'ordine hanno raddoppiato il controllo di alcuni punti sensibili. Forse da Siriza hanno preferito non correre rischi. Tra i socialisti più maturi, il ricordo dei colonnelli è ancora vivo. Ed eccola la forza di sinistra radicale greca, atipica, sebbene abbia disegnato un programma da 11 miliardi per rispondere alle emergenze del paese, dal ripristino delle tredicesime all'innalzamento delle pensioni e dei salari minimi, dal recupero della sanità pubblica, che al momento non riesce ad assicurare nemmeno le vaccinazioni, al reintegro di dipendenti pubblici. Qualcuno accusa Siriza di populismo e in effetti non si sa da dove Tsipras tirerà fuori i soldi per tutte le promesse fatte. Ma non è solo per questo che i comunisti ellenici lo guardano con sospetto e preferiscono evitarlo. Il KKE ha ottenuto un ottimo risultato. Con pochissimi mezzi porta 15 dei suoi in Parlamento. Domenica mattina, a uno dei due seggi della placa, incontro una esponente del KKE. Si chiama Anti. Mi dice che ha imparato a parlare italiano vivendo per qualche tempo in Calabria. Noi lo sappiamo che, siccome non siamo del sistema, allora non è che ci vogliono fare vedersi o tutto questo. Non aspettiamo tante cose dalle elezioni. La nostra questione non è a vincere alle elezioni, è a svegliare la coscienza della gente. E pensate che Tsipras non abbia svegliato abbastanza? Pensiamo che Tsipras, Siriza, non è un vero partito comunista, è messo dal sistema, che farà tutto quello che gli dicono. Quindi non ci sarà rottura con il passato? No, non crediamo noi. Sarà una cosa che si ripete, speriamo che dopo la gente può capire. Però dopo vorrebbe dire pagare un prezzo ancora più alto. Sì, secondo noi sì. Qual è la condizione del paese adesso? Tanto percentuale di disoccupati, di malpagati e di pensionati che, va bene, vivono in condizioni, va bene, non, di sanità che non c'è. Crediamo che questo continuerà anche con Tsipras, non è che cambia qualcosa. Quindi non vale neanche la pena provare a dialogare con Tsipras? No. Dall'Italia sono arrivati inoltre 400 sotto la bandiera della Brigata Calimera e si sono portati dietro un entusiasmo quasi superiore a quello dei greci, un entusiasmo che ha spinto anche la decana della sinistra, una delle fondatrici del manifesto, Luciana Castellina, a volare su Atene. Oggi, uscendo da un seggio, una signora gli hanno chiesto perché ha votato, ha detto Tsipras, e ha detto perché, e hanno detto perché è giovane, è bello e buono. E una volta tanto uno viene a vedere qualcuno che è bello, giovane, buono e che vince, secondo me vale la pena. La politica è fatta anche di emozioni, non soltanto. E se vince uno di sinistra qua, innanzitutto dà una scossa a chi oramai in Italia non fa più niente, è caduto nella massima passività perché pensa che non ci sia più niente da fare. Invece la dimostrazione è che si può cambiare, questa è già una cosa. E poi io credo che se una persona ragionevole come Alexis Tsipras, che è capace, perché ha anche le competenze per contrattare con l'Europa, si mette davvero a contrattare, questo può indurre una svolta che serve a tutti. Bella questa storia, no? Che qui si è reinventato c'è Bella Ciao, no? Mi pare una gran bella cosa, no? In Italia rimangono sbalorditi, davvero, si canta Bella Ciao. Una sinistra pragmatica quella di Tsipras, che non infiamma gli animi, nonostante Bella Ciao. Sul taxi che mi porta all'aeroporto chiedo al tassista se è contento del risultato. Mi risponde che per lui non cambierà nulla, che il voto dei greci è stato un voto di rottura, perché sono stati i vecchi partiti, il PASOK e Nuova Democrazia, a ridurre il paese in queste condizioni. Non abbiamo votato Tsipras per l'ideologia, mi dice, ma perché ha carisma, temperamento, saprà negoziare in Europa. L'alleanza con la destra è strana, ribadisce anche lui, ma è comunque un segnale, di certo un segnale da non sottovalutare. Passeranno e mi diranno che è meglio, e questo è il cuore del partigiano, oh bella ciao.